Radio 24 Reportage. Ahmed e gli altri, da Damasco a Milano, sognando la Svezia, di Valentina Furlanetto. Ahmed ha 10 anni, sogna di diventare un cantante rap e un giorno riabbracciare la sua mamma. Khaled faceva il muratore, con sua moglie Hussein vuole andare in Svezia. Ahmad era un soldato del dittatore siriano Assad, si è rifiutato di sparare contro la popolazione ed è dovuto scappare. Sono 4 dei più di 200 profughi siriani ospitati a Milano. Piove a Quartoggiaro, periferia di Milano. Le strade sono allagate, le foglie gialle e rosse degli alberi sono a terra. Chissà quanto lontana deve apparire Damasco a questa gente arrivata dal mare che ripete in continuazione Sweden, Svezia. La palazzina della Onlus Arca, che ospita un centinaio di questi profughi, è fatiscente. Ma almeno è un tetto che ripara dalla pioggia. Ci accompagna in questo girone dantesco un giovane italiano di origini marocchine che fa il volontario. Il suo nome è Saif. È attraverso la sua mediazione che raccogliamo le storie di questa gente. I ragazzi erano sul barcone, quello che è affondato, e alcuni di loro, tipo lui, ha perso il cugino e ancora oggi non sa niente di suo cugino. Probabilmente in tanti gli dicono che è morto, ma lui spera di trovarlo, spero che sia stato uno sbaglio, anche perché identificativamente, se non ci sono loro a vederli, sai, finché non lo vedono coi propri occhi non sono sicuri. Cercano di parlarmi in arabo tutti assieme. Il giovane che mi ha indicato Saif mi ripete ossessivamente il nome del cugino, mi mostra anche una foto sgualcita con il volto sorridente di un ragazzo ed è molto deluso dal fatto che io non ho informazioni su suo cugino. Si chiama Ahmad el-Ajawi, era un soldato del regime di Assad, racconta il suo viaggio da Aleppo, dove viveva. جيت من سوريا على مصر من مصر على ليبيا ومن ليبيا الى ايطاليا سوريا all'Egitto dall'Egitto alla Libia da Libia all'Italia. Lui è un ex soldato scappato dalle file del regime. Li obbligavano a sparare alla popolazione dicendo di questi sono terroristi, questi dobbiamo ammazzarli. Loro quando sono scesi nelle piazze per contrastare queste popolazioni hanno chiesto ai loro generali, cioè, dove sono le armi che ci dicevate che questi avevano? Questi non hanno nessuna arma, stanno manifestando in piazza, sì, stanno scendendo coi cortei, ma nessuno di loro usa violenza, perché dobbiamo sparare a loro? Vuole rimanere in Italia o andarsene? Lui vuole andare in Germania dove c'è il suo fratello e la famiglia del fratello. E quanto ha pagato, se ha pagato per venire qui? $1,200. Come sta adesso? Vedo che ha delle escoriazioni. Sì, ce l'ho appena fatto visitare dal medico e queste escoriazioni che ha avuto sono state escoriazioni provocate dal barcone dove è stato. Era vicino alla cabina di pilotaggio e con le varie onde, i vari movimenti del mare, anche con le tempeste, ha sbattuto più volte contro la cabina di pilotaggio. Queste persone sono arrivate in Sicilia, da lì sono riuscite a raggiungere Milano, dirette quasi tutte verso il nord Europa, senza documenti sono stati però fermati alla frontiera, rispediti a Milano dove sono rimasti accampati alla stazione centrale per alcuni giorni. Dormivano sul marmo delle panchine, donne e bambini compresi, fino a che la giunta Pisapia non ha deciso che era troppo, era una vergogna troppo grande e quindi bisognava farsene carico. Assieme ad Arca e alla Caritas li hanno portati in questi centri dove almeno hanno un letto e un pasto caldo. Al secondo piano della palazzina, dietro alle porte, mormorano le donne intimidite, frastornate. Hussein ha i capelli raccolti dentro un fazzoletto, gli occhi verdi, giovani. Sta seduta su un letto, osserva con timore il microfono. Quando le spiegano che non sarà ripresa dalle telecamere, appare confortata. È partita con il marito dalla città di Dala, racconta, che è stata completamente distrutta dalla guerra. Atlana min Suria, badena tal Lebanon, o badena Masr, o badena Libia, o min Libia e gina lahon, alla Italia. Hanno fatto un giro ancora più lungo, sono passati dal Libano, dal Libano in Egitto, dall'Egitto alla Libia e dalla Libia a qua in Italia. E dove è arrivata? Lampedusa? A Lampedusa. Sì. Il Bahira وصلتنا يعني قريب من Lampedusa بس الهلال الأحمر. Ringraziando Dio, loro è arrivata la Croce Rossa che li ha caricati sul barcone ancora in mare, in avaria, e li ha caricati in mare arrivando fino a Lampedusa. Quanto ha pagato e dove spera di andare? Dafana min Libia Lampedusa 1000 dollari. 1000 dollari a testa, lei e il marito, in Svezia. Come si trova qui? Alhamdulillah, kwaisa. Dio, siamo vivi. Il marito di Hussein, Khaled, è un ragazzo alto dai capelli scuri. Dice che li hanno cacciati da fuori dalle loro abitazioni, dai loro paesi. In tanti, purtroppo, li hanno cacciati fuori per fare di quelle zone militari. Cosa faceva di lavoro lì? Muratore. Qual è stato il momento peggiore di questo viaggio? Le peggiori 24 ore della sua vita sono state quelle in mare. È tremendo. Per dire adesso un aneddoto. In tutta buona fede, il secondo giorno che erano qui, abbiamo fatto del pesce da mangiare. Ecco, posso dire che nessuno l'ha toccato. Nessuno ha toccato il pesce, nessuno voleva sentire parlare di qualcosa arrivante dal mare. E noi ce ne siamo accorti dopo, vedendo che nessuno toccava il pesce, diciamo, ma come mai? Però il pesce lì ricordava il mare e la brutta tragedia che hanno passato tanti di loro. Ciascuno ha la sua storia, dietro ogni porta ci sono delle ferite. A un certo punto al centro arriva anche Pierfrancesco Maiorino, assessore alle politiche sociali del comune. Non siamo di fronte a persone che vogliono rimanere in Italia, siamo di fronte a persone che vogliono andare via dall'Italia e noi non stiamo permettendo loro di farlo a livello europeo questo. Servono quindi azioni da parte del governo, che non può commuoversi i giorni dei funerali di Lampedusa per poi dimenticarsi di come programmare l'accoglienza di chi è qua. A livello nazionale che tipo di collaborazione c'è stata o si è mosso solo il comune? Si è mosso il comune e, ci tengo a dirlo, il mondo dell'associazionismo milanese. C'è stata una pronta risposta da parte della prefettura in relazione al fatto che è stata effettivamente stabilita subito una convenzione e quindi quanto avviene qui è tutto, diciamo, nelle regole di una convenzione e anche con risorse dello Stato. E non c'è nessuna azione da parte del governo per affrontare il vero nodo del permesso temporaneo che consenta a questi cittadini di girare nell'area Schengen in relazione alle loro volontà. C'è una latitanza da parte di Roma spaventosa su questo terreno. Quanti bambini ci sono? E sono tutti accompagnati, tutti con le famiglie? In questo momento, in relazione a questo flusso migratorio, sì. Sono alcune decine di bimbi che sono tutti presenti con le loro famiglie. C'è poi un fenomeno di minori stranieri non accompagnati da alcuni mesi, in parte legata alla vicenda siriana, in parte comunque la situazione nel Mediterraneo è molto importante, molto pesante. Anche su questo il governo ha smesso di finanziare interventi indispensabili per la loro accoglienza. يسقط النظام لك يا خسارة شو صار بالأبطال وقت الاعتقال أخذوهن عزبوهن ضربوهن سلموهن. Bambini come Ahmed, 10 anni, di Damasco. Ahmed mi si avvicina, chiede subito di parlare. Il padre non vorrebbe, alla fine acconsente, purché non diciamo il suo vero nome. Poi gli sta vicino, quasi per proteggerlo. Ahli b'emmi o akhwati b'Suria, akhoi msawab. È arrivato con suo padre. E la mamma con i fratelli e le sorelle sono rimasti lì perché hanno un fratello a cui purtroppo a causa di una guerra è stata amputata una gamba. Com'è stato questo viaggio? Che è stato terribile perché hanno passato 12 giorni in mare, di cui gli ultimi 3 giorni senza più mangiare, senza riuscire a trovare né cibo né acqua. E gli ultimi 2 giorni precisamente senza acqua. E alla fine è arrivato la Croce Rossa che li ha salvati, ringraziando Dio. Cosa spera per il suo futuro? بتمنى بالمستقبل لانه هلا يعني اطلع على السويد واجيب اهلي للسويد واطلع مغني راب. Arrivare in Svezia, poter riabbracciare sua mamma e i suoi fratelli, farli arrivare in Svezia, potendoli riabbracciare, e da grande spera di fare il cantante rap. صوتنا سلمية إسلام ومسيحية سلفية ومندسين قالوا البعثيين طلع بشار السفاح عم يضحك بالخطاب ونقال في أشعار معقول هاللي صار في ناس عم تموت يا مجرم يا عميل والله مستحيل دمك هدري روح يا حمزة يا خطيب. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.